E voilà, le e LA Access. Eravamo in clima estivo. Un attimo in California, in no? In California. Così, e invece così. No, invece qua sembra inverno, tu addirittura c'hai la giacca a vento in studio. Ma io sì, no, ma più che altro perché non ho fatto in tempo a toglierla, perché c'era il solito traffico imbestialito e... Sì, no, è incredibile. Devo dire che questa riapertura ci sta dando delle soddisfazioni. Nel infatti, senso che ci si mette... Ci si mette... Da via Don Minzoni arrivare qua ci si mette 40 minuti in macchina. Esatto. Tipo 5 minuti di bicicletta, no, 8 minuti di bicicletta se uno sgambetta, tutto aumentato del 15% come minimo se piove, ma esatto, forse anche il 20 o il 30, comunque siamo qua. Non sappiamo cosa dire. Diciamolo, non sappiamo cosa dire, però questa volta non è colpa nostra. Esatto, non perché infatti nostra. io ho messo un titolo provvisorio a questa puntata di Coxo Spaziale, che è I Paccaioli. I Paccaioli, io ho messo Coxo a caso perché è più come, o meno. Perché è la logica conseguenza, esatto, diciamo. Nel è senso così. Che se ci tirano il pacco gli ospiti poco tempo prima della trasmissione, noi dobbiamo inventarci una trasmissione. E siccome parliamo di arte contemporanea, di cosa parliamo? Io sono impreparata perché io ho un fuoriporta fantastico, però lo devo posizionare nella seconda parte della trasmissione. Ti posso dire però, sì, perché se no non si capisce l'incipit della trasmissione, sai che io ci tengo alla coerenza e alla precisione. Certo. Che sto facendo gli appunti della puntata sul retro di una serie di informazioni sulle droghe. Sulle droghe, sulle per droghe. Cui parliamo. Quindi, dello, quando parliamo voi dello Eurovision acquisti... Song Contest. Perfetto, me. Potremmo fare. Ciao, siamo le Inky Fingers e facciamo le cose con le fingers. Che è abbastanza inquietante anche quello. No, dicevo, sì, perché non so se hai sentito qualcosa. Hanno vinto i Måneskin, si pronuncia Måneskin. Måneskin, sono il gruppo italiano che ha vinto lo Eurovision Song Contest. No, io ho visto solo proprio il minuto in cui stavano per vincere. E comunque sembra che il tizio stesse sniffando cose strane, il cantante, proprio mentre stavano annunciando. Ah, sì, sì, no, questa l'avevo. Ecco, questa l'avevo. No, perché favato su Facebook era impossibile da mancare. E quindi vedi che comunque sono sempre coerente anche quando non lo so. Cioè, ecco. Esatto. E quindi se poi vorrete acquistare per questa famosa pubblicazione che uscirà dopo l'estate, sappiate che dietro alla puntata 363 ci sono anche utili informazioni appunto sulle droghe. Sulle droghe. Io invece devo dire che siccome appunto ero un po' curioso, sono andato a vedermi un po' di puntata registrata della finale dello Eurovision Song Contest e la mia preferita è stata Stefania, che era la cantante della Grecia, ma non per le sue doti canore. Ma certo, che sono quelle che tu metti all'ultimo posto. No, non è vero. Dopodiché mi è piaciuta abbastanza questa canzone che ho portato, sei contenta? Sì, che è così magari intanto vado a spulciare il mio fuoriporta e mi documento su me stessa. Esatto. Come si chiama? Questa è la canzone dell'Azerbaigian. Lei si chiama Effendi e la canzone si chiama Matahari. Effendi come Effendi? Effendi come Effendi. Ma non c'era quella canzone di cos'era? Di Rino Gaetano. Esatto. Parlava di lei, però parlava non lo sapevamo ancora perché probabilmente lei non era ancora nata, presumo. A godless spy, my spy, I uncover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire. Ain't gonna leave no survivors. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, the army of lovers. I set a fire. I'm on the man, I'm on the man, I'm on the man. Thank you. Stavo pensando che noi non facciamo sentire della gran musica d'avanguardia, eh? No, no, soprattutto oggi. The army of lovers. Hai capito? Let's go. (333) 180 94 94, se volete insultarci in diretta. Questa è la puntata giusta. Questa è la puntata giusta. Perché c'è un sacco di spazio, c'è un sacco di spazio per gli ospiti, esatto, che non ci sono. No, anzi, fra l'altro, infatti volevo dire, visto che la settimana prossima mi dicono che tu non ci sia, 333-180-94-94, se volete venire ospiti in studio, siete scrivetemi prima, potete tranquillamente contare sulla mia assenza. Esatto, scrivetemi entro le 20, perché così, perché poi alle 20 non leggerò più i messaggi di Radio Città Fujiko, ma se potete candidarvi per venire ospite a Cox Spaziale lunedì prossimo, in cui non sapremo di che cosa parlare, perché e soprattutto io sarai anche da solo, senza di te io sono completamente perso. Sì, completamente perso, soprattutto che il monologo potrebbe vertere quasi esclusivamente, ma potresti fare una puntata monografica su Jenny Owen Young. Certo, fra l'altro tu ci scherzi, però io le ho chiesto di poterla intervistare. Per ma chissà che non venga lei stessa. Per il momento non mi ha risposto. No, secondo me un po' se la tira, perché poi fra l'altro è un po' famosa, un po' no, è un giro un po' strano quello lì. Devo ancora... Quindi non è abbastanza famosa da potersi permettere di non tirarsela più, diciamo. Esatto, una roba del genere. Fatto sta che io domenica invece sono andato a vedere l'atelier di Tullio Vietri. Tu conosci Tullio Vietri? Non personalmente. È per quello che ho messo il jingle di arte contemporanea, perché ahimè lui è deceduto nel 2016, ci ha abbandonato così, però era nato nel 27 ed era un pittore localissimo, nel senso che abitava a 200 metri dalla mia vecchia casa, vicino allo stadio. E, a Zola Predosa? No. Quando io prima di Zola Predosa abitavo vicino allo stadio. Adesso non è che voglia raccontare tutti i traslochi che ho fatto. E lui appunto abitava, aveva lo studio, anzi lo studio è ancora lì con tutte le sue opere, fantastico. L'ho postato un po' su Instagram. Ma ieri. È visitabile liberamente? Era visitabile ieri. Adesso non so quanto, però c'è il sito che è www.tulliovietri.com, perché sua figlia ha un'associazione con cui appunto cerca di mantenere la memoria. C'è Oscar Moroni che ci scrive delle cose che non possiamo ripetere, per cui non le ripetiamo. Esatto. Comunque ti ringraziamo per starci ascoltando. E via Andrea Costa, no, non è via Andrea Costa, è via Saragozza. Comunque lui ha scritto nel luglio del 1969 questa cosa che volevo condividere con te, se non altro. Ovvero, ma riconoscersi come intellettuale vuol dire innanzitutto proporre una concezione dell'arte come conoscenza, come critica. Vuol dire concepire l'arte come ricerca artistica, destinata a intaccare i miti e gli stati puramente emotivi, i pregiudizi tradizionali ma privi di qualsiasi base logico-etica, le aberrazioni individuali e di gruppo, i regimi politici che reggono sul consenso artificialmente creato e mantenuto da masse umane cui viene sottratta attraverso strumenti moderni di comunicazione di massa ogni possibilità di giudizi critici autonomi. Non ho finito. In realtà non vi è arte degna di questo nome che non sia arte storica, consapevolezza problematica che non può tuttavia esistere senza un'autentica immaginazione sociologica che permetta di vedere e valutare il grande contesto dei fatti storici nei suoi riflessi sulla vita interiore e sul comportamento esteriore di tutta una serie di categorie umane. Riconducendo in tal modo il disagio personale, l'insoddisfazione, l'alienazione dei singoli a turbamenti oggettivi della società e trasformando la pubblica indifferenza in interesse per i problemi pubblici. Dunque, Luca Rossi, cioè, qualcuno diceva le stesse cose in maniera un po'... Prima di Luca Rossi, che è una cosa incredibile, c'è cioè un evento, qualcuno del quale Luca Rossi non può dire, esatto, io l'avevo già fatto, l'avevo perché già era detto luglio 1969 e io so di preciso che a luglio 1969 Luca Rossi non era ancora nato. Luglio 1969. 69, 1969, certo. Fantastico. Eh sì, perché Tullio Vietri, che appunto in pochi conoscono, io sono il primo che non sapevo chi fosse e semplicemente quella macchina di Sandro Melossini mi ha mandato l'invito per venire a vedere il suo studio, ho detto ah che bello, in via Saragozza andiamo a vedere, ed effettivamente ci sono un sacco di lavori bellissimi soprattutto degli anni 70. Lui che cosa faceva soprattutto? Soprattutto dipingeva e faceva collage su carta da giornale. Bellissimo. No, ma io sono rimasta molto colpita anche per il fatto che non so, vorrei confrontare adesso, a parte Luca Rossi, però forse è anche un po' compreso Luca Rossi tutto sommato, cioè le dichiarazioni anche dei più illuminati artisti contemporanei, diciamo da giovani a semigiovani a quasi vecchi, secondo me non hanno questa, cioè non c'è lo stesso... neanche lo stesso linguaggio, la stessa... Ah certo, no, se vabbè, cioè... il linguaggio diciamo si è... No, ma non è sicuramente... una questione di linguaggio proprio inteso, però proprio uno che parla del consenso artificialmente creato sì, nel 1969 è interessante. È interessante, no? È che sono cose che adesso è più vengono dette in modi più... cioè comunque bisogna sempre girarci un po' intorno perché andare... non lo so, siccome si è persa un po' di proprietà linguistica, te la butto lì. Ok. Nel tempo. Oscar Moroni mi offende, dice che sono uno statalone ricco e dunque adesso abito vicino al mambo, e poi mi dice che Luca Rossi scrive solo cagate. Non è vero, insomma, no, anzi, dice un sacco di cose giuste, correttissime. Molto corrette, poi dopo fa un po' un mélange qualche volta. Esatto, ogni tanto diciamo che si perde un attimo, soprattutto quando si mette a parlare di se stesso. Che cioè, quindi ma quasi, abbastanza che è, spesso. Che è un po' quasi sempre. Cioè, questo, Luca Rossi, se ci stai ascoltando, questi sono i nostri consigli. Esatto. E mentre invece questa, perché tu devi sapere che Jenny Owen Youngs ha un canale privato in cui io mi sono iscritto. Io intanto sono sul sito, sul Twitter di Jenny Owen Youngs. Ah, ecco, vedi. Jenny Owen Youngs. Esatto. E allora qualcuno le ha chiesto: ma tu che cosa stai ascoltando in questo periodo? E lei ha detto: sto ascoltando Jordana. E io ho detto: chi cavolo è Jordana? E questa e è Jordana. I guess this is life, è il pezzo. Two times already, heard all the Giordana piace al tuo amico musicante, musicologo, musichiere? Secondo me non tanto. No? Troppo melodica? È troppo melodica. Credo che ci considererebbe due soggetti dai gusti un po' facili. Dai gusti un po' facili, ma oggi siamo effettivamente abbastanza commerciali oggi. Cioè, più che commerciali, abbastanza melodici. Diciamo che seguiamo la linea di minor tensione, viste le circostanze. Sì, no, infatti. Che anche cosa perché, ci possiamo fare? Voglio dire, anche perché abbiamo già Giffo che è già arrabbiato di per sé, se gli mettiamo anche della musica un po' troppo... un po' troppo impegnativa, diciamo. Esatto, dopo no. Poi magari si arrabbia ancora di più. Fatto sta che sono le 19:28 e bisogna far così. Che famo stasera? Beh, sono già finite. Oggi erano stringatissime. Cioè, oggi che quasi come se subodorassero che oggi che sarebbe stato un clamoroso calo dell'audience. Esatto. Saremmo passati da 5 a 3. Un ascoltatore. Tornati all'epoca dell'ascoltatore unico. No, mi ha appena scritto che non funziona più lo streaming. Come non funziona più lo streaming? Siamo finiti, abbiamo zero ascoltatori. Abbiamo zero ascoltatori. Ah, perfetto. se lo streaming muore così, sì. Vabbè, ritenta, sarai più fortunato. Tutto magari. Congiura stasera. Tutto congiura. Insomma, quelle sere così che tutto si addensa. Allora, visto che tutto si addensa in maniera, come dire, sfavorevole, per coerenza, anche perché tu mi hai parlato del... No, nelle nostre pubblicità c'era questa osteria del fuori porta. Ok. E allora io sono stata settimana scorsa e questa volta ho la sigla, devo solo trovarla. Capito perché non si trova mai, l'ho chiamata in modo che non si trova. Perfetto, io intanto posso leggere tutto quello che ho scritto fuori porta. Eccolo. Perfetto, e siamo in tema di cose che vanno storte, perché io due settimane fa sono scesa nella capitale che sarebbe Roma, per chi non se la ricorda, per chi non lo ricordasse, siamo in Italia, noi qui siamo a Bologna, esatto. Naturalmente, però io ogni tanto scendo anche in altre città. Con l'intenzione di andare a vedere alla Galleria Nazionale la mostra I Say I, mostra di artiste italiane legata alla figura di Carla Lonzi, liberamente ispirata, direi. E naturalmente, che cosa è successo? Che io avevo programmato di andare nel weekend e nel weekend la Galleria Nazionale è chiusa. Fantastico. Per cui sono veramente rimasta basita di fronte ai leoni di Davide Rivalta, che erano l'unica cosa che si poteva vedere sulle scalinate. Come stanno i leoni di Davide Rivalta? Sempre benissimo. Mm-hmm. È bello che siano lì, perché comunque quando trovi la Galleria Nazionale chiusa ti puoi comunque sedere e consolarti di fronte a uno di questi bestioni. Ma ci sono i bambini che ci vanno sopra a cavallo? No, in realtà è sempre deserto, nessuno approfitta della scalinata e quindi c'è un po' quest'aria. Ho capito. E dunque, che cosa hai visto a Roma? Visto e allora, bene. Visto che ero a tiro, ho detto bene, vado a Villa Glori. Mm-hmm. A Villa Glori c'è un interessante parco di sculture contemporanea che in realtà è di artisti che sono più della generazione di Tullio Vietri, direi, che non contemporanea intesa come nostri colleghi attivi in questo specifico momento. No, e pensavo che adesso stanno riaprendo i musei, no? Cioè sono riaperti, però con prenotazioni, complicazioni. Fino a quando andrà avanti questa cosa delle prenotazioni, by the way? Non sono la persona giusta a cui chiedere, ma presumo per un mesetto, dai, fra un po'. Per un mesetto. No, in realtà aspetta, no, è già finita. Almeno già finita. A Bologna le prenotazioni non sono già più necessarie. Non sono già più necessarie. Durante il weekend. Quindi magari adesso anche chi va a Roma può andare anche alla Galleria Nazionale senza prenotare. Forse chissà che il fine settimana non abbiano anche riaperto. Documentatevi. Però se rimanete impigliati, incastrati in un inghippo da post-Covid, i parchi di sculture all'aperto sono sempre un luogo salubre dove si può andare anche a vedere dell'interessante arte. Allora, cosa c'è a Villa Glori? Villa Glori è un parco bellissimo che si trova in Prati e quindi vale la pena anche proprio di per sé. Ci sono delle sculture di Franco Purini, Nino Caruso, Maurizio Mocchetti, Maria Dompè, Eliseo Mattiacci, Mauro Staccioli, Nunzio Pino Castagna, Paolo Canevari, Giuseppe Uncini. Hai capito? Tutti costoro ci sono riuniti. Tutti riuniti in assembramento. In questo, ok. E devo dire che alcune di queste opere, che naturalmente non sono propriamente recentissime, sono opere della seconda metà del Novecento, alcune reggono veramente bene. Per esempio, la Porta del Sole di Giuseppe Uncini, che è stata anche graffitata, come spesso suole accadere a opere che rimangono abbastanza incustodite all'aperto, però riesce a reggere questi graffiti con una certa dignità. Questo mi è sembrato A Torino un'opera pubblica di Bruno Martinazzi era stata graffittata e la stavano per restaurare. Lui ha detto: fermatevi, perché così è molto più potente. È molto più potente. Sì, questa veramente assume un aspetto quasi sembra quasi una cosa un po' egizia, cioè questi graffiti che sono normalissimi. Però Uncini era un grande, a me piace tantissimo, devo dire. Infatti. Anche non male la scultura Uomo Erba di Paolo Canevari, che è una gigantesca aiuola a forma di omone, e guarda caso comprato con tanto di prato dentro, e guarda caso, coincidenza, le persone si trovano a fare yoga proprio lì. Cioè, il parco è enorme, sconfinato, potrebbero andare ovunque, però. Ma perché è più comodo? Ci vediamo all'omone. Ci vediamo all'uomo erba. Ok. E anche questa mi è sembrata una bella cosa, un successo delle opere nel tempo. Altre sono interessanti, viste da lontano, e poi quando ci si avvicina perdono un po'. Ok. Vogliamo fare nomi e cognomi anche stavolta? Ma. Non lo so, soprattutto perché, ma sì, facciamolo. Pino Castagna Monadi, per esempio, è molto bella quando si intravede sono dei blocchi di cemento un po' ricurvi, e, in questa pineta con questi fusti altissimi si intravedono questi blocchi che scompongono un po' la visuale. E poi però quando ci si avvicina si cominciano a vedere un po' i particolari costruttivi, qualche elemento di sostegno un po' arrugginito di troppo, insomma non è proprio così efficace come vista da lontano. Diciamo installazione di staccioli si può vedere anche dalle nostre parti nel parco di sculture di Santa Sofia, e sono queste ruotone giganti. Io non lo so, si possono vedere sotto vari aspetti, a nonché di minaccioso, ho sempre paura che mi ruzzolino addosso. Comunque così anche Nunzio, però insomma diciamo che a me fondamentalmente quelle che hanno colpito di più sono Uomo Erba e Porta del Sole. E niente, questo era il mio fuori porta di ripiego, ma sempre di soddisfazione. Certo, e faccio così perché effettivamente è anche l'ora. L'angolo della menzione. Ecco, io naturalmente continuo ad avere Oscar Moroni che mi clicca, e siccome mi appare proprio dove stavo cliccando, continua e non riesco più a leggere quello che volevo leggere. Però ringraziamo Oscar Moroni, no, che infatti, sapendo che noi siamo a corto di contenuti, cioè stasera ci delizia, però io non so. No, infatti quello forse che volevo dare a Oscar. No, magari non è una buona idea questa. Quello che volevo dire è del come inizio dell'angolo della menzione è che da oggi è aperta l'open call per il grant che si intitola Andy Rockelli Grant. Andy Rockelli, per chi non lo sapesse, era un fotografo e organizzatore di questa come si chiama? Di questa rivista che si chiama Cesura. Aspetta che mi ha chiesto di aprirlo con Chrome e io non ho Chrome installato, ma io non lo so veramente. Comunque, fatto sta che, poverino, lui è morto in Ucraina nel 2014. E dunque i suoi amici e collaboratori di Cesura Magazine hanno istituito appunto il premio Andy Rocchelli, The Andy Rocchelli Grant, che permette a chi partecipa, al vincitore, di appunto fare una pubblicazione con cesura. La open call è aperta da oggi, trovate tutto su www.coxospaziale.blogspot.com da domani, per cui e potrete partecipare, se non sbaglio, fino a settembre, e l'idea appunto è quella, fondamentalmente è aperta per i fotografi che vogliono fare una pubblicazione fotografica del proprio lavoro o una qualche. Lui era molto interessante, aveva fatto questo progetto sulle case delle prostitute russe, ed è veramente un gran bel libro, ho avuto il piacere di sfogliarlo a Fruit qualche tempo fa. Beh, devo dire coraggioso Andy Rocchelli, Andrea al secolo Rocchelli. Lo sei andata a cercare. È stato un giornalista, fotoreporter e fotografo italiano, fotoreporter freelance professionista, è stato fondatore e membro del collettivo di fotografi indipendente Cesura e sentite un po', purtroppo viene ucciso nel corso della rivolta dell'Ucraina orientale dalle forze armate ucraine. Esatto. Mentre documentava le condizioni dei civili, quindi infatti. È un artista che è morto sul campo. È un esatto. Caduto sul lavoro. Un caduto sul lavoro, davvero. Sì. E niente. E dunque andatelo a omaggiare guardando i suoi lavori su www.cesura.it. Mentre invece. Il 28, che adesso non ho un calendario davanti, ma credo che sia venerdì pomeriggio, inaugura una mostra a Forlì della nostra amica Elena Merschi. Ah, fantastico. Alla libreria Marmo di Forlì, che ospiterà. E potevamo chiamare lei allora. Hai ragione, prova a chiamarla al telefono, magari ti risponde, ci racconta qualcosa lei stessa della mostra. E non credo che abbiamo abbastanza tempo, perché ricordati che c'è la menzione di Fedra fra non moltissimo. Ah, è vero, abbiamo quindi quest'altra ancora di salvezza lanciataci dalla nostra cara Fedra, sì. Boscaro. E dunque, dicevamo, dal 28 maggio al 6 luglio la libreria Marmo ospiterà De Natura, una mostra personale di Elena Merschi, Forlì in Popoli 1989. Però li porta benissimo. Ad essere allestita sarà la sua ultima serie di lavori, disegni principalmente di piccole dimensioni, ma non solo, di piante cosiddette da appartamento. L'artista forlivese ha concepito e realizzato le opere durante il primo lockdown del 2020. Il suo sguardo si è posato su quelle piante di cui abbondano molte case oggi, frammenti di natura anche di grandi dimensioni che, come objet trouvé, vengono spostati dal loro habitat naturale originario per abbellire le nostre case ed essere di conforto alle nostre anime. E questo è a Marmo, in corso Giuseppe Garibaldi 152 a Forlì, e trovate tutto su marmolibreria.com. Stavo riflettendo che la poetica di Elena Merschi sarebbe perfetta per quelli che come me hanno il pollice rosso e che non riescono a far crescere neanche una piantina grassa per sbaglio. Potrei diventare una collezionista sua e portare in casa un po' di green. Secondo me dovresti assolutamente. Dopodiché invece il 29 e il 30 maggio abbiamo Primavera di Fabrizio Favale / Le Supplici alle Sementerie Artistiche, e che sono a Crevalcore, in via Scaglia Rossa 1174. Cosa succede? È il primo episodio dell'edizione del 2021 delle Stagioni Invisibili, ciclo coreografico infinito. A tutte le performance parteciperanno anche gli agricoltori dell'azienda agricola Valle Torretta con i loro spettacolari macchinari, che per l'occasione danzeranno per noi assieme ai performer, regalando al tempo stesso occasione di conoscenza del lavoro con la terra e altre varie meraviglie. Questa è alle Sementerie Artistiche, azienda agricola Valle Torretta, a Crevalcore. A seguire c'è scritto degustazione e vendita di prodotti, aperitivo, degustazione e vendita di prodotti di stagione, per cui insomma se andiamo fino a Crevalcore non torniamo a mani vuote. E a fatto sta asciuta. Che la nostra fantastica Fedra ha anche fatto una velocissima intervista al nostro Fabrizio Favale. performance, ricerca, teatro. Ciao Fabrizio, benvenuto al Coxo. Ci racconti com'è nata l'idea del ciclo coreografico infinito? Ciao a tutti. Sì, grazie della domanda. Dunque, il progetto nasce sostanzialmente nel 2018 in una stretta collaborazione con la Stagione Agorà di Elena Di Gioia, e con loro praticamente è andato avanti tutto il percorso molto complesso e molto bello fino al 2020, in cui loro appunto hanno trovato per noi delle location meravigliose dove realizzare gli spettacoli. E il progetto nasce da un mio desiderio di uscire dal teatro e inoltrarmi nella natura, in spazi veramente a volte molto strani, molto complessi, o a volte anche spazi ordinari, e lì realizzare praticamente per ciascun spazio dove sbarcavamo, dove andavamo, degli episodi specifici, per cui ogni volta inventavamo delle performance studiate per il luogo. E iniziando questo percorso ci siamo resi conto che andando fuori nel paesaggio, ogni paesaggio appunto è diverso dall'altro, e per questo abbiamo deciso di, insomma, di inventare questo ciclo coreografico infinito. Durante questi anni si sono aggiunti anche altri partner come l'AMAT delle Marche o come il Festival Città delle 100 Scale di Potenza, Festival per Aspera di Bologna tra l'altro, e attualmente stiamo realizzando tutto il ciclo di episodi 2021 con le Sementerie Artistiche di Crevalcore. Il progetto tra l'altro ha vinto, insomma, anche dei premi molto importanti, per cui siamo veramente molto orgogliosi e felici, come appunto l'anno scorso ha vinto il premio Per chi crea di SIAE e MIBAC, e quest'anno, novità assoluta, il progetto è rientrato fra gli 8 spettacoli più innovativi a livello europeo del circuito Big Pulse Alliance. Il 29 e il 30 maggio andrà in scena l'episodio Primavera. Nel comunicato stampa leggo: danzatori evanescenti e macchine agricole danzano insieme. Devo dire che questa è l'immagine che più mi ha colpito e che mi ha spinto a chiederti questo contributo per questa puntata del Coxo. Ci puoi dire qualcosa di più di questo connubio? Sì, ok. E dunque, macchine e creature evanescenti. Allora, c'è da dire che noi praticamente per ogni episodio che costruiamo, quindi uno per ogni stagione, realizziamo delle mappe di orientamento per il pubblico, mappe della, diciamo, dell'area in cui si svolge tutta la performance, un po' come avviene negli zoo o nei giardini botanici, in cui, diciamo, per ogni tappa c'è scritto appunto che tipo di animale andremo a incontrare o che tipo di pianta rara ci sarà nella prossima stazione. E così avviene anche nelle stagioni, nel senso che appunto le mappe indicano dei punti e per ogni punto c'è scritto il nome della creatura fantastica che andremo ad incontrare. Sì, a me piace molto l'idea, diciamo, di inventare con la danza, con i danzatori, delle figure, delle creature immaginarie, fantastiche, che appunto creano un dialogo con il paesaggio attorno in cui si svolge la performance. E in questo caso, nell'azienda agricola che fa parte delle Sementerie Artistiche di Crevalcore, e si estende su una vastissima area di lavorazione appunto agricola, di coltivazione, veramente molto bella. Lì appunto normalmente per ogni stagione ci sono dei macchinari che vengono azionati per la lavorazione della terra. In questo caso i macchinari incontrano i danzatori e quindi viene fatto un lavoro proprio con gli autisti e gli agricoltori che manovrano queste macchine, e insieme praticamente verrà costruita una coreografia in cui appunto compaiono sia danzatori che macchine agricole. Ah. Hai capito. Beh, meno male che c'è la nostra Fedra. Sì, infatti. Boscaro. Comunque non è finita, ho un'altra menzione, perché quella macchina da guerra che è Sandro Malossini mi ha spedito tipo 20 minuti fa l'invito a una mostra che si intitola Tacquini e altri fogli sparsi di Alfonso Frasnedi. Inaugurazione sabato 29 maggio alle ore 18 e questo è alla sala Ivo Teglia in via Bentini numero 1 a Monzuno. E la mostra è realizzata dal comune di Monzuno con l'assessorato alla cultura, Felsina Factory e anche al patrocinio della regione Emilia-Romagna. Io non so assolutamente nulla di Alfonso Frasnedi, so solo appunto il titolo della mostra, Tacquini e altri fogli sparsi. La cura è naturalmente di Sandro Malossini, che salutiamo, e questo è quanto. Io posso giusto aggiungere, perché me lo ha detto Luca Panaro, che Alfonso Frasnedi è stato per anni il come si chiama, il preside, si dice così, giusto? Si dice preside del liceo artistico di Modena. Il famoso Venturi Luca Panaro dice così, quindi magari gli potremmo chiedere una volta una testimonianza diretta. Forse era preside quando era studente lui, che ha studiato al Venturi, il nostro Luca. So anche che Alfonso Frasnedi ha l'atelier, oppure aveva fino a poco tempo fa, in una via che è frequentata molto dagli studi d'artista, che è, indovinello, via Carteria. No. Assolutamente no. Qual è la via nella zona dell'Accademia di Belle Arti, dove hanno lo studio? Ah, Bologna, pensavo che fossimo Io avevo preso per scontato che fosse a Modena. Sì, avrei dovuto precisartelo, questo è un errore mio, e quindi via 100-300, naturalmente, dove abbiamo tutti gli studi dei più grandi artisti contemporanei bolognesi, a parte uno che invece è Mianosa. molto bene. E dunque è così, sono le 19:50 ed effettivamente forse 5 minuti di telefonata alla Elena Meschi gliela potevamo fare. Fagliela così di brutto mi sembra un po'. Sembra un po' una cattiveria, però con Sabrina Muzzi l'abbiamo fatto una volta. L'abbiamo fatto. In occasione della. Quindi va per par condicio, secondo me la si potrebbe tentare. Sarebbe quasi da fare. Io non ho il numero, quindi ti giro la palla. No, io invece stavo pensando che in realtà lei è appena apparsa su Facebook con un'intervista, fra l'altro, di Sandro Malossini sulla sua partecipazione alla mostra dell'Assemblea Emilia Romagna, dove appunto racconta. Aspetta un po'. Perché lei ha partecipato. Senti. Dov'è? Si concentra principalmente su degli elementi naturali. Mi interessa l'elemento naturale e l'elemento artificiale. E quando vado a studiare l'elemento naturale mi interessa sempre il lato oscuro della natura, e in questa occasione ho portato un'opera che si intitola Foresta Nera, e in questo caso specifico ho analizzato l'elemento naturale prendendo in esame anche la forma della natura, ma anche una forma geometrica. Quindi sono andata a lavorare con i soliti elementi naturali che sono abituata ad utilizzare, e inserendoli però all'interno di una forma geometrica. Gli elementi naturali per me hanno una valenza di personificazione dell'uomo. Hai capito? Non è male, però questa cosa da un punto di vista audioacustico, tutto sommato. Vero? Sì, si potrebbe, cioè quando siamo in questa situazione, cioè circa quasi spesso, sono super sorpreso di me stesso che sono riuscito a trovarlo in 2 secondi e mezzo, però effettivamente mi avevano taggato. Però devo dire che Elena è fantastica. È fantastica. Ha detto elementi naturali forse una volta di troppo in questa. Diciamo che abbiamo capito che questo è il tema. È il suo elemento naturale. L'elemento naturale. Fatto sta che comunque, se non la conoscete, andatevela a vedere sul suo sito. Elena Ameaschi si scrive con la H. La H va sulla Ameaschi e non sulla Elena, perché io mi sbaglio sempre. Ah no, sì, perché poi mi confondo con una Elena. Con una Elena nostra, che comunque non ha la H davanti neanche lei. È perfetto, allora mi confondo con me stessa, come spesso accade. Bene, ma dobbiamo dare a Sandro Mallossini il badge di fan più attivo, di follower, di membro più attivo di Coxo Spaziale. Infatti, devo dire, senza di lui, oggi senza questa di lui puntata non ci sarebbe stata, stata la puntata, esatto. Senza lui, senza Fedra. E senza noi anche, senza di noi. A quel punto ci sarebbe stato l'autoradio, il famoso bianco, esatto, no, il famoso bianco che abbiamo fatto era la settimana scorsa, che mi sono un attimo dimenticato di accendere la radio prima di andarmene, e vabbè, succede, e vabbè, succede. E così, dunque, niente, questo era la 360, abbiamo detto 363esima puntata di Coxo Spaziale. Mi raccomando, se volete venire ospiti lunedì prossimo. La settimana prossima, comunque la settimana prossima ti posso mandare una menzione. Mandami una menzione. Ti mando una menzione perlomeno. Possibilmente registrata, possibilmente da 25 minuti. No, ti mando una menzione, no. Io ti mando il comunicato stampa e poi la menzione la fai tu. E poi me la leggo poi io. Esatto. Ho capito, va bene. Allora faccio una puntata tutta su Jenny Owen Young. Perfetto. Saluto la Claudia Mauti che ci ha abbandonato, che lei faceva queste fantastiche di venerdì sera, faceva queste fantastiche puntate di monotematiche, no, come si dice, monografiche, in cui per due ore parlava solo di un artista, di un artista musicale. Ma questo io forse l'avevo anche detto, che non sarebbe male anche proporlo, cioè dovremmo documentarci un attimino di più, cioè ci tocca di studiare, il problema è questo esatto. Fondamentalmente diciamolo così apertamente, no? Quindi non viene fuori questo patchwork taglia e cuci, però forse sarebbe da fare ogni tanto puntata monografica, uno a stagione, quattro artisti l'anno, esatto. Si potrebbe fare, apriamo io il potrei mese fare di... Mattia Moreni per dire. Beh, io avrei sicuramente, però ne ho già parlato parecchio, comunque Chiara Fumai potrei fare, certo, una puntata monografica. Possiamo fare copia e incolla di quello che abbiamo già detto e ce l'abbiamo già praticamente. Dopodiché, ecco, io faccio Mattia Moreni e Jenny Owen Young, va bene? Va bene, perfetto. Mi sembrano due. Io posso fare Frank Zappa. Esatto, no, tu puoi fare Frank Zappa e Chiara Fumai e poi niente. Bene, a questo punto direi che possiamo salutarci. Mancano tre minuti. Mancano tre minuti alle 8. Questa era la puntata del 3, perché era la puntata 363, 3 e 3, 6, 6 e 6, 12, 2 e 1, 3. È finito il tempo. È finito il tempo. Io ero Chiara Viola oggi. E io ero Stefano W. Pasquini. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Весняночка, де ти зимувала? Йосадочка на клиночку зо.